24 mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi. Alessandro Milan oggi è in vacanza e tornerà sicuramente domani a intrattenervi con la sua capacità dialettica. Oggi accontentatevi di me, buongiorno, buon mattino, ma di chi si accontenterà l'Italia nel prossimo anno dopo le elezioni? Questo si chiedono tutti i giornali di questa mattina. Cosa farà Monti? Monti tentato da destra, da sinistra, dal centro, tentato e messo in guardia dal Quirinale. Cosa farà l'attuale Presidente del Consiglio e quanto cercheremo di capire, anche a noi interessa, che cosa farà di noi, cosa farà di noi Monti, cosa farà di noi il Governo. Buongiorno Bimbo Alieno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bimbo Alieno, blogger finanziario, un esperto di economia, ha un blog appunto già molto spesso ospite di Alessandro Milat, un sguardo indipendente sul mondo dell'economia e della finanza. E buongiorno a Roberto Bertinetti. Roberto Bertinetti, professore di letteratura inglese all'Università di Trieste, profondo conoscitore della realtà britannica. Ecco, comincerei proprio da Bertinetti, ma dalla Gran Bretagna si chiedono che cosa farà Monti? Ma si chiedono più che altro cosa farà l'Italia, nel senso che dai giornali inglesi, almeno dalle prime pagine dei giornali inglesi, il tema Italia era, diciamo, sparito nel corso degli ultimi mesi, se non per notizie di cronaca. Dal momento in cui si è aperta sostanzialmente la crisi di governo e Berlusconi ha anche annunciato di candidarsi per un'altra volta per la carica di primo ministro, i giornali inglesi hanno ricominciato ad occuparsi dell'Italia mettendo quelle che loro definiscono le stranezze italiane in prima pagina. Le stranezze italiane, questo Berlusconi che ritorna, ieri è stata una grande giornata per Berlusconi, ci sono anche polemiche, un'ora a Canale 5, un'ora di intervento di fronte a milioni di spettatori e qualcuno ha detto forse si è già iniziata la campagna elettorale, sicuramente è già iniziata la campagna elettorale. Sentiamo cosa ha detto Berlusconi sull'Imo, se è pronto da mandare in onda. Non c'è ancora, comunque Berlusconi ha detto niente IMU per tutti, è il titolo peraltro del giornale di oggi, che è il giornale appunto di Berlusconi. Ecco Berlusconi. Questa che secondo me va assolutamente abolita, anzi il secondo punto del programma che noi presenteremo è l'abrogazione dell'IMU. Ecco, l'abrogazione dell'IMU, come forse molti ricorderanno, uno dei punti forti con cui Berlusconi si presentò l'ultima volta alle elezioni è stata l'abolizione dell'ICI, poi peraltro messa in pratica. Ieri appunto vi dicevo di polemiche in TV con Barbara D'Urso. C'è anche una polemica, secondo me, completamente sbagliata, perché è quella dell'ordine dei giornalisti che dice Barbara D'Urso non è una giornalista e non doveva intervistare Berlusconi. E questo dimostra come l'ordine dei giornalisti forse ha passato il segno. Mi sembra che non esistano dei giornalisti in Gran Bretagna, Bertinetti. No, non esiste assolutamente niente del genere. Si viene assunti da un giornale e si diventa giornalisti e poi si torna magari a fare altre cose. Ecco, qualcuno diceva il giornalismo è un bel mestiere se si riesce a uscirne presto. Io non ci sono riuscito e continuo a fare il giornalista. Comunque è divertente fare il giornalista e questo è certamente una consolazione. Allora, guardiamo un attimo anche all'economia, Bimbo Alieno, perché c'è un articolo di fondo della Stampa che dice l'economia USA sull'orlo del burrone. Francesco Guerrera, che peraltro non è l'ultimo arrivato perché è il caporedattore finanziario del Wall Street Journal a New York, il nome è italiano, che sia un italiano caporedattore finanziario è già forse una buona notizia. Ma veramente l'economia USA sull'orlo del burrone, Bimbo Alieno? Ma credo il gioco di parole si riferisca al cliff, cioè al burrone fiscale, cioè il fatto che nei prossimi giorni, il primo di gennaio per la precisione, automaticamente, se non verranno prese delle decisioni diverse e quindi non verranno trovate degli accordi tra democratici e repubblicani, il primo di gennaio, dicevo, scatteranno la fine di alcuni stimoli fiscali che gli Stati Uniti hanno portato avanti per una decina d'anni, perché sono stati disegnati dalla presidenza Bush ancora. E che hanno permesso al PIL americano di reagire e di essere decisamente più tonico di quello europeo in questi anni, però al tempo stesso hanno anche portato il debito americano a livelli decisamente più europei, molto più elevati, e sostanzialmente rendendo impossibile la prosecuzione completa di questi stimoli, per cui andranno rimossi parzialmente. Si spera che democratici e repubblicani trovino degli accordi per decidere in che modalità rimuoverli, sia attraverso maggiori imposizioni fiscali e quanto invece attraverso tagli di spesa, e in che modo nel tempo inserire questa rimozione di stimoli, perché chiaramente, così come in questi anni hanno permesso la presenza di questi stimoli al PIL americano di essere più tonico, la loro rimozione completa immediata significherebbe evidentemente un disincentivo all'economia, e quindi noi abbiamo un PIL americano che cresce nelle stime, diciamo che va dal 2 al 2,70 a seconda del centro studi piuttosto che della casa d'affari che prepara la stima, e un impatto che si immagina dalla mancata conferma di questi stimoli nell'ordine dell'1,5% del PIL. Quindi diciamo che con un imprevisto durante l'anno potremmo addirittura trovarci con gli Stati Uniti che finiscono in recessione. Ecco, peraltro appunto Francesco Guerrera sulla stampa dice, appunto conferma che il PIL americano sta crescendo del 2,7% e nota ben sotto la media storica del 3,2%, ecco, una differenza del 0,5% che non sembra poi così clamorosa. Comunque sicuramente l'economia americana è sull'orlo di scelte importanti. Tra l'altro notavo che nel suo blog Bimbo Alieno appunto si dice BCE luce guida del 2012 e, con un punto di domanda, del 2013, e c'è un'osservazione molto interessante, il fatto appunto che Mario Draghi ha ripetuto più volte come la politica non debba abdicare al suo ruolo, mentre la banca centrale con i propri interventi monetari le compra tempo, quel tempo che va usato per le riforme strutturali che politicamente parlando è così difficile fare perché riducono il consenso. Ecco, questa immagine della banca centrale che compra del tempo, cioè che lascia dello spazio ai governi perché facciano qualcosa per rimediare a una situazione con delle riforme strutturali. Ecco, questa immagine è certamente efficace, resta però il fatto che se è efficace l'azione della banca centrale, un po' meno efficace appare l'azione dei governi, Bimbo Alieno. Sì, assolutamente, quanto più sono inefficienti i governi nei loro interventi, tanto più la banca centrale è costretta a tamponare con decisione e con forza. Ciò non toglie che sono tutti interventi tampone. Prendiamo anche il discorso sugli studenti fatto poco fa, si diceva appunto questa crescita del 2,70 inferiore alla media storica del 3,20, e pensiamo che è una crescita anche tra virgolette drogata da una situazione di stimoli rilevanti, perché appunto senza questi saremmo in una situazione di crescita molto molto più bassa della media. Ecco, quindi il problema appunto è questo: come rilanciare la crescita, che è il dilemma appunto in cui si dibattono tutti i governi. Non è facile perché rilanciare la crescita. Esatto, noi siamo abituati a ragionare di una crescita che viene sostanzialmente alimentata dalla spesa pubblica, perché viviamo insomma in un ambiente che per decenni ha fatto sì che lo Stato sia sostituito al mercato. Tre volte che il ciclo economico è stato negativo, lo Stato ha fatto più spesa, nel momento in cui la disoccupazione era in difficoltà lo Stato ha fatto da imprenditore e da datore di lavoro, però sono tutte situazioni nelle quali diciamo lo Stato interviene e investe. Il problema è che in questo momento, soprattutto in Italia e come in altri paesi mediterranei, la condizione per investire lo Stato non ce l'ha più, lo Stato ha bisogno di rientrare dai propri investimenti, e quindi si crea questo effetto di cosiddetto deleveraging, cioè in cui si smontano sostanzialmente delle situazioni e si avvia una sorta di spirale dalla quale alcuni chiedono di uscire proprio riprendendo il vecchio schema, quindi con uno Stato che investe e cerca di di rilanciare il volano economico. Ecco, forse c'è anche un altro modo per rimettere in moto la spesa, è quello di ridare un po' di soldi alle famiglie, non solo far spendere lo Stato, ma far tornare un po' di soldi attraverso delle riduzioni fiscali che appaiono appunto fondamentali. Sì, però dal punto di vista contabile, spese o minori incassi da parte dello Stato è più o meno la stessa cosa, nel senso che se deve rinunciare a delle forme di prelievo fiscale, di fatto rinuncia delle entrate che dal punto di vista contabile equivale in qualche modo a decidere di avere più uscite. Naturalmente decidere di avere meno entrate e lasciare più soldi in tasca ai cittadini consentirebbe forse dall'altra di avere un tipo economico più vitale e quindi recuperare in un altro modo, cioè applicare una fiscalità su un PIL leggermente più robusto. Perché si può sperare che la spesa dei cittadini possa essere più efficiente della spesa dello Stato, indirizzandosi ai consumi, ma indirizzandosi anche al risparmio e quindi finanziando attraverso il risparmio gli investimenti delle imprese, che potrebbero essere appunto anche questi più efficienti delle scelte statali guidate dall'alto. Però è l'eterno dilemma. Normalmente è così. Noi abbiamo il grosso problema che nell'estate 2011 eravamo ormai a credibilità zero. Dovemmo sottoscrivere un accordo che diceva che noi saremmo dovuti arrivare al pareggio di bilancio per il 2013 e quindi, come dire, sebbene ci dicono ormai tutti che la velocità con cui stiamo consolidando il bilancio è eccessiva e quindi nella frenata che stiamo facendo i bagagli stanno scuotendosi nel bagagliaio della nostra macchina perché stiamo esageratamente premendo sul freno, lo stiamo facendo perché, come dire, ce lo siamo dovuti autoimporre perché eravamo arrivati ad avere una credibilità zero, facevamo fatica a collocare i nostri titoli sul mercato e abbiamo dovuto prendere un impegno vincolante certo, di grande impatto, diciamo così, dal punto di vista estetico. E purtroppo oggi siamo fissati a quel patto e se da una parte continuiamo a ripetere che non abbiamo bisogno di aiuti, dall'altra non possiamo di certo dire concedeteci più tempo per rientrare, perché sarebbe quasi una missione di difficoltà. Per cui ecco, sì, grazie. Io volevo magari una parola a Roberto Bertietti prima di dare notizie sul traffico. La Gran Bretagna è fuori dall'euro, molto spesso si attribuisce all'Europa questo rigore eccessivo. Tra l'altro, dopo le 8:30 parleremo di Germania, del fatto di come la Germania appunto influisce anche sulle scelte politiche italiane. Ma anche la Gran Bretagna, tuttavia, Bertinetti, qualche problema di crescita economica ce l'ha. Ma ne ha molti. Giusto qualche giorno fa, il 5 di dicembre, il cancelliere dello scacchiere, George Osborne, si è presentato in Parlamento per la sua cosiddetta dichiarazione di autunno, dovendo ammettere che tutte le misure adottate dal suo governo, dal governo conservatore negli ultimi anni, sono sostanzialmente fallite, che nel corso del 2011 la crescita del prodotto interno lordo, che era stimata circa dell'1%, si è trasformata invece in un arretramento, e non dimentichiamoci che nel 2012 la Gran Bretagna ha usufruito di due eventi straordinari che le hanno portato introiti anche dall'estero, cioè le Olimpiadi e il Giubileo della Regina. Quindi ha dovuto rivedere per l'ennesima volta le stime al ribasso, aumentare una certa pressione fiscale, tagliare degli interventi statali che erano stati programmati e soprattutto dire che nonostante le misure adottate sino ad oggi, almeno sino al 2018, è stato addirittura detto, l'austerità dovrà continuare prima che si possa vedere una ripresa stabile. Ora, come diceva un signore qualche decennio fa, cioè Keynes, il 2018 è un periodo abbastanza lungo, troppo lungo per fare previsioni. Keynes diceva che nel lungo periodo le previsioni non si possono fare perché forse saremo tutti morti. Ecco, speriamo che nel 2018 potremo rivederci, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, saremo forse ancora qui a parlare di economia, speriamolo, ma intanto diamo la linea alle notizie sul traffico. 24 mattino. E rieccoci qua a 24 mattina, stavamo parlando dell'economia inglese, delle prospettive 2018, di fronte a noi c'è appunto la prospettiva molto più immediata, quella del 2013, inizio 2013 si voterà, e sentiamo ancora Silvio Berlusconi che cosa ha detto ieri a proposito della candidatura di Monti. Se lui intendesse fare il federatore dei moderati, io mi ritirerei da candidato alla presidenza del Consiglio. Siamo in attesa di una risposta da parte del professor Monti. Ecco, federatore quindi dei moderati, ma i moderati non sono solo Berlusconi, sono anche, secondo Berlusconi, la Lega, che ha sempre combattuto contro Monti, che ha detto esplicitamente ancora ieri con Maroni che mai si allerà con il professore, con l'ex presidente della Bocconi, ma sono anche Casini. Che cosa ha detto Casini? Sentiamo Casini ieri sera. Siamo su scherzi a parte, non siamo da Fazio, cioè qua siamo su scherzi a parte, perché è una cosa, ma l'ha detto lui, sì, no, ma io capisco, però scusi, faccio fatica a star dietro le giravolte di chi una settimana fa dice ai suoi di togliere la fiducia al governo, oggi vorrebbe che questo capo del governo facesse il candidato suo e realizzasse l'unità dei moderati, dice naturalmente anche con la destra di Storace, magari pensa anche alla Lega, ma Monti, se farà qualcosa, non lo so, ma lo farà con la credibilità di una persona coerente e seria. Non credo che sarà disponibile alle giravolte a cui ci ha abituato Berlusconi in questi anni, perché a forza di giravolte Berlusconi ha messo in ginocchio l'Italia, questo è il problema. E se è andato via, non è andato via per delle ragioni molto nobili, è andato via perché non era nelle condizioni di tirare avanti, dopo aver sottoscritto in Europa degli impegni capestro, che Monti ha dovuto onorare, con le casse dello Stato allo stremo, con lo spread che era schizzato, per cui nessun gesto di nobiltà, ma un gesto doveroso per evitare di essere travolto dal naufragio, e con lui saremmo stati travolti tutti noi. Ha detto che ecco, era Pier Ferdinando Casini ieri sera da Fabio Fazio. Ecco, mi sembra di aver capito che un'intesa con Berlusconi da parte sua, da parte dell'UDC, da parte appunto di alcuni dei moderati, sia quantomeno difficile, quantomeno complessa. E proprio a proposito delle promesse di Berlusconi, si parlava con Bertinetti della Prospira 2018, si può ricordare come Berlusconi sia andato in Europa nell'agosto dell'anno scorso con una riforma delle pensioni che prevedeva sì l'aumento dell'età pensionabile come aveva chiesto l'Europa come riforma strutturale, ma la prevedeva per il 2026. Parliamo quindi anche qui di grande futuro. Allora, Bimbo Alieno, come vede invece dell'immediato questa prospettiva, ma questa tempesta politica, peraltro ancora ipotetica, sul futuro dell'Italia sembra toccare poco i mercati finanziari. C'è stato uno scossone quando Berlusconi ha detto ritorno in campo, tutti sono stati presi un po' dal panico, però poi hanno capito che cosa c'era veramente dietro, e le contrattazioni sia sui titoli pubblici, sullo spread, sia del mercato azionario sono proseguite con abbastanza tranquillità. Forse i mercati hanno ormai assorbito un po' tutto di quello che sta avvenendo nel campo politico, Bimbo Alieno. Ma io direi che i mercati hanno avuto un attimo di shock, perché hanno temuto che l'Italia dopo le elezioni si sarebbe trovata con un Parlamento spaccato a metà tra aderenti alla persecuzione dell'agenda di risanamento e in linea generale populisti di vario colore, che invece avrebbero spinto peraltro un altro genere di linea politica. Poi nei giorni successivi, da mercoledì in poi, della scorsa settimana, è diventato chiaro che questo scenario dovrebbe essere scongiurato, perché comunque all'interno del PDL c'è una forte presenza di soggetti, comunque di correnti interne che sono favorevoli alla linea europeista, ad un centrodestra, come si dice, moderno, eccetera. Quindi che se non arriva nulla a stemperare e a ridurre le prospettive di un Parlamento che comunque nella sua maggior parte sosterrà un certo tipo di approccio, i mercati non dovrebbero avere altre scossoni, altre crisi di sfiducia nei confronti dell'Italia. Naturalmente, ecco, in campagna elettorale, certo, possiamo aspettarci grandi rivoluzioni, quindi ecco uno dei problemi che abbiamo sicuramente di fronte, che è quello della legge elettorale che è rimasta quella di prima, il famoso Porcellum, una legge elettorale che sottolineano molti giornali oggi, lo vedremo poi nella rassegna stampa, una legge elettorale che rischia appunto di creare le condizioni per una Camera con una maggioranza anche solida, ma con un Senato che è eletto appunto su base regionale, con un premio di maggioranza su base regionale, che potrebbe invece essere, come è già stato peraltro sia nelle precedenti passate esperienze di governo del centro-sinistra e del centro-destra, essere abbastanza diviso a metà tra i due schieramenti. Ecco, la legge elettorale in cui fa la differenza. Ecco, vorrei chiedere a Roberto Bertinetti: la Gran Bretagna è vista come un paese in cui le maggioranze sono stabili? Quali sono le differenze maggiori tra la legge elettorale britannica, anche le procedure per formare il governo in Gran Bretagna e quelle italiane? Bertinetti. Beh, innanzitutto non c'è teoricamente nessun tipo di problema sull'indicazione del primo ministro, nel senso che è automatico che il partito che vince le elezioni indica il primo ministro, anche se, appunto, dicevo, normalmente, attualmente la Gran Bretagna è governata da una coalizione, che è una cosa abbastanza strana per la storia britannica recente, la coalizione tra i conservatori e i liberal democratici, che hanno avuto nelle elezioni di 2 anni fa un grande risultato, ma che in questo momento non godono di molto favore da parte dell'elettorato. Tra l'altro, i quotidiani di oggi titolano sul fatto che il leader liberal-democratico, che è anche vice primo ministro, contesta questa politica di cui facevo cenno prima di Osborne, quindi ci sono dei problemi di spaccatura all'interno della maggioranza di governo. Diciamo, per tornare al sistema elettorale, il sistema elettorale prevede collegi uninominali abbastanza piccoli, in cui, come dicono gli inglesi, il primo prende il posto, cioè teoricamente una maggioranza dovrebbe, cioè ogni collegio potrebbe avere un vincitore diverso, naturalmente non accade. Non servono le firme, che da noi negli ultimi giorni hanno agitato l'opinione pubblica favorevole ad alcuni movimenti, come ad esempio il Movimento 5 Stelle, che ha bisogno di raccogliere le firme per presentare i propri candidati in Parlamento. Curiosamente, con un pragmatismo protestante, direi, gli inglesi, cioè un inglese che si vuole candidare in un collegio, anche un qualunque cittadino può farlo, deve depositare una certa somma di denaro. Nel momento in cui non raggiunge una determinata percentuale di consenso, perde quella somma di denaro. Sempre sull'ultima cosa, sulla cosa del sistema elettorale britannico, che è una curiosità: gli inglesi non votano mai durante il weekend. Normalmente le elezioni politiche in Gran Bretagna si tengono il giovedì. Ecco, si è parlato molto di questo amletico Monti. A che personaggio della letteratura paragoneresti Mario Monti in questa fase? Questa è una domanda difficile. Amletico sì, nel senso che apparentemente non decide. Mi sembra che possa essere paragonato più a qualche, non tanto ad un personaggio del Rinascimento inglese, cioè delle tragedie shakespeariane. D'altra parte, l'accostamento con Amleto non mi sembra molto elogiativo da questo punto di vista. Amleto è il simbolo dell'indecisione e soprattutto anche poi sarà il simbolo nella tragedia shakespeariana di un risultato non particolarmente positivo. Certo. Direi più a qualche personaggio della letteratura del realista dell'Ottocento, cioè mi sembra più una figura forse che poteva stare in qualche romanzo di un signore che poi durante il periodo vittoriano diventò primo ministro, che si chiamava Disraeli, perché comunque i politici nella letteratura inglese non hanno mai avuto molto spazio, quando l'hanno avuto non hanno mai avuto in termini positivi. Perché in fondo la letteratura è una cosa seria. Grazie a Roberto Bertinetti anche per questa ultima incursione appunto della letteratura, peraltro docente di letteratura inglese all'Università di Trieste. Grazie a Bimbo Alieno, blogger con un blog molto seguito sui temi finanziari e appunto politici. Grazie a quanti ci hanno seguito. L'appuntamento è tra 20 minuti per la rassegna stampa. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Buongiorno all'Italia, sono le 7:20 e starete ancora con me, sono Gianfranco Fabi per oggi al posto di Alessandro Milan, che tornerà comunque domani in questa settimana prenatalizia. Adesso faremo un po' una scorsa ai giornali, poi alle 8:15 parleremo con Massimo Mucchetti, vice direttore del Corriere della Sera, autore di un libro intervista

passaggio di Giuliano Ferrara sul Foglio, che richiama sul fatto, come alcuni dicono, che appunto a sparare non sono le armi ma sono gli uomini, che bisogna soprattutto cercare di guardare alla realtà morale di una società e di non pensare che solo dei gesti formali possono risolvere il problema, ma che solo con una nuova etica, con un'etica della vita, si può guardare in avanti con fiducia e affrontare anche questi drammatici temi come quello della strage in America. E concludo citando Francesco Alberoni sul Giornale: non guardiamo allo Stato ma dentro noi stessi, è un richiamo appunto a fare ognuno il proprio dovere. Grazie, ci risentiamo alle 8:20. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, bentornati, eccoci qua. Buongiorno da Gianfranco Fabi, buona giornata, buon lunedì 17 dicembre, mancano quasi poco più di 7 giorni, poco più di una settimana a Natale. Buon Natale, buon pre-Natale a tutti, buon Natale a Massimo Mucchetti. Buon Natale a voi. Grazie a Massimo Mucchetti, vice direttore del Corriere della Sera, autore del libro Intervista con Fitor, un libro intervista con Cesare Geronzi, uno dei banchieri più potenti degli ultimi anni in Italia, e un libro di cui si è parlato molto. Non vogliamo tanto parlare del libro, ma dell'esperienza appunto di Massimo Mucchetti, un'esperienza decennale, possiamo dire così, nel campo finanziario, perché segue praticamente da sempre le vicende finanziarie italiane. Allora, Massimo Mucchetti, una prima domanda: qual è stata la sorpresa più grossa che hai avuto intervistando Geronzi rispetto a quanto sapevi, perché tu sapevi tutto delle vicende finanziarie italiane? Qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più? Ma mi hanno sorpreso alcuni dettagli. Nella sostanza direi che sorprese clamorose non ce ne sono state per me, ma non so, dettagli particolari come per esempio il contrasto che ebbe con lo stesso Cuccia e Maranghi nel momento che erano i due capi assoluti di Mediobanca, nel momento in cui per esempio Enrico Cuccia si stava avvicinando alla fine, pochi giorni prima di morire, l'aveva chiamato al suo capezzale per discutere di alcuni punti, e lì iniziò l'opposizione di Geronzi allo status quo come era in Mediobanca. Uno dei passaggi già più importanti della storia finanziaria italiana è proprio la successione di Enrico Cuccia, il cambio di politica che c'è stato in fondo in Mediobanca e i contrasti interni che peraltro hanno portato prima all'ingresso come presidente di Geronzi e poi alla sua uscita negli ultimi anni. Ecco, Mediobanca è rimasta al centro della finanza italiana, è ancora al centro della finanza italiana? Ma io credo, ecco, dal colloquio che abbiamo avuto con Geronzi, che sia emerso un dato, al di là di quelle che potevano essere le intenzioni originarie dell'intervistato e forse anche dell'intervistatore, anche mie, e cioè è emerso che Mediobanca ha cominciato a perdere la sua centralità fin dai primi anni 90, non ultimamente. Questo è stato la persa perché sono venuti meno quei presupposti giuridici e legislativi della legge bancaria, della presenza delle partecipazioni statali da una parte e di un nucleo ristretto di grandi gruppi privati che a lei facevano capo dall'altra. Ecco, questo fenomeno inizia oltre 20 anni fa, ecco, questo è il punto. E Geronzi, quando per un primo tempo ha sostenuto Mediobanca così com'era, senza porsi questo problema, e in un secondo tempo ha cercato di prenderne lui la guida, prima come il più influente fra i consiglieri di amministrazione e poi come il presidente medesimo, nella convinzione di poter tenere in piedi quello schema. Ecco, il punto di interesse è che quello schema non poteva stare in piedi, alla fine tutti ne hanno dovuto prendere atto, e credo che la scommessa interessante oggi sia che questa banca, che rimane comunque uno dei massimi concentrati di sapienza tecnica, di professionalità specifica, possa continuare a svolgere un ruolo importante, ma non più centrale. La centralità alla fine non fa più bene a questo paese. Io credo che l'attuale gruppo dirigente di Mediobanca questa lezione della storia l'abbia già compresa abbastanza da tempo. Naturalmente essere centrale significa anche esercitare un grande potere, questa è una tentazione che chi fa banca al massimo livello ha sempre con sé, e chi fa informazione invece deve sempre cercare un po' di guardarla con l'occhio del cane da guardia dell'opinione pubblica. Ecco, ricordo agli ascoltatori 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, se volete fare qualche domanda a Massimo Mucchetti, ma con lui vorrei chiedere all'autore appunto di questo libro come è nato anche questa, il titolo, questo Confiteor, che è una formula appunto canonica di confessione in latino, dove nel testo latino appunto dello stesso l'ultimo messale di Paolo VI si dice Confiteor Deo Onnipotenti, mi confesso a Dio Onnipotente, ma confesso soprattutto di essere peccatore. C'è anche questa dimensione non solo della confessione, cioè del rivelare delle cose personali, delle vicende appunto di cui si è stati diretti i protagonisti, ma c'è anche la dimensione di riconoscersi un po' peccatore in Cesare Geronzi? Ma dunque, il titolo è nato da un compromesso, perché in prima battuta avevo pensato di proporre Confessione di un banchiere, ma Geronzi diceva io non ho mai peccato, quindi non ho niente da confessarmi. Allora, siccome a me piaceva il concetto comunque di confessione in una chiave laica, non in una chiave diciamo così religiosa, in una chiave in cui cioè la confessione è anche il racconto a cuore aperto della propria vita, no? Certo. Al di là del fatto se io ho peccato o meno. Allora mi è venuto in mente questo concetto del confiteor, perché confiteor non è solo confiteor Deo Padre Onnipotenti, Beate Maria, eccetera, eccetera, ma è anche, bravo, è anche et vos, et vobis fratres, no? E questo è il dato che io diciamo, ho cercato, ma proprio lo raccontiamo come è nata la discussione fra di noi sul titolo. Nel senso che la confessione ai fratelli, come avveniva nell'antichità, era una cosa ben diversa dalla confessione classica che siamo stati abituati diciamo così, a vivere noi, dove c'è un rapporto individuale, bilaterale, a tu per tu, fra il peccatore che si confessa e il prete che ne accoglie la confessione, la stimola, poi impartisce la soluzione previa penitenza. La confessione primitiva era un condividere con la comunità la propria vita, quello che uno ha fatto. Ecco, in questo caso il tema è quando racconta i vent'anni di rapporto con la Fiat, per esempio, Geronzi. E beh, nel libro, al di là del fatto che si dica ho fatto bene o ho fatto male, nel momento in cui Geronzi prende le distanze dalla Fiat attuale, no? Nel suo rapporto con l'Italia, condividendo delle posizioni che avevamo espresso sul giornale in certi momenti in chiave anche abbastanza solitaria, e nello stesso tempo rivendica di aver costruito questa Fiat attuale attraverso il convertendo, attraverso delle operazioni finanziarie di cui lui assieme ad altri era stato protagonista, a questo punto il lettore diciamo così criticone può cogliere anche una sonora contraddizione nelle posizioni dell'intervistato. Nello stesso tempo un lettore che abbia un senso della storia un po' più ampio può anche dire la vita evolve, no? E determinate cose che sono chiare adesso magari potevano essere meno chiare 10 anni fa, ovvero i rapporti di forza, i contrasti, le lotte per il potere portavano da quella parte e magari non c'erano in quel momento alternative migliori, cioè si storicizza. Ecco, il libro da questo punto di vista offre al lettore, a seconda dei suoi livelli, diciamo così, di quanto possa essere smaliziato, diversi piani di lettura. Un piano di lettura è entrare oltre le porte chiuse del potere italiano, del potere finanziario, e dall'altra parte partecipare a un gioco in cui anche tu ti fai le tue idee sulla base di una maggior messa di informazione su cosa sarebbe stato bene e su che cosa sarebbe stato meno bene fare o non fare nei tanti momenti cruciali degli ultimi 20 anni. Ecco, illustrare quanto è avvenuto non è certamente dare un giudizio o un pregiudizio, partire da un giudizio o un pregiudizio. Tu hai cercato di portare a galla, di far dire a Geronzi qual è stato il suo ruolo nelle vicende finanziarie, poi ovviamente il giudizio su se è stato giusto comportarsi in un certo modo o meno giusto, se sia stato giusto un certo sistema o sia meno giusto, indubbiamente spetta poi a ciascuno. Ovviamente le critiche possono essere molte, anzi devono essere molte, perché un certo sistema di potere, soprattutto quando è stato opaco, quando è stato poco trasparente, quando è stato a servizio di qualcuno e non dell'insieme del paese, va certamente criticato e indubbiamente la libertà di critica deve essere assoluta. Ma in questa prospettiva, anche un attimo prescindendo da Geronzi, Massimo Mucchetti, questo sistema finanziario è diventato negli anni un sistema un po' più trasparente, un po' meno legato appunto alle segrete stanze o ai pallidi e confortevoli magari salotti? Ma io credo che la battaglia per la trasparenza sia una battaglia che non è mai vinta una volta per tutte. Certamente, non so, 30 anni fa, 40 anni fa, il sistema finanziario era assai meno trasparente di oggi. Oggi le società quotate, le società che hanno l'ambizione di accedere al pubblico risparmio, sono sottoposte a obblighi di informazione impensabili una volta. Quindi certamente oggi c'è molta più trasparenza. Ma siccome la battaglia a guardie ladre non è mai finita nella storia dell'uomo, in questa condizione di maggior trasparenza, come posso dire, quantitativa, oggi nel mondo degli affari nascono nuove forme di opacità, più sofisticate, più raffinate. Si pensi soltanto all'enorme, sterminato complesso del cosiddetto shadow banking, tutto quel complesso di attività finanziarie che valgono un multiplo enorme del PIL mondiale, che avvengono nella più assoluta opacità fuori dai mercati regolamentati attraverso il sistema dei derivati, delle obbligazioni strutturate e quant'altro. Non entriamo in dettagli tecnici che annoierebbero, certo. Diciamo, questa è una cosa enorme che nell'epoca dell'opacità non esisteva, nell'epoca della trasparenza è fiorita. Quindi che cos'è trasparente, che cos'è opaco è un tema che va declinato sempre considerando il momento storico nel quale si vive. E quindi, naturalmente, poi siccome gli uomini sono quello che sono, capita che anche senza bisogno di correre a questi stratagemmi enormi, la gente cerchi di farla franca, di fare la furbata, anche alla vecchia maniera. Però ecco, io quello lo considererei una piccola patologia. Oggi il sistema finanziario è, per certi aspetti, quantitativamente parlando, più opaco di ieri, nel momento in cui ti dà una messa di informazioni assai più grande di quella che ti dava ieri. Ecco, una messa di informazioni appunto che indubbiamente nel libro proprio su Geronzi, la stessa tua parte, è molto, hanno detto, ci sono più parole dell'intervistato che non dell'intervistatore per spiegare appunto anche quanto è avvenuto. Cioè, indubbiamente quanto è avvenuto ormai a partire dal passato. Molto rapidamente, Mucchetti, possiamo dire che però forse in questa opacità dei nuovi strumenti finanziari l'Italia è rimasta un po' provinciale, quindi un po' al riparo. In fondo il sistema finanziario con i suoi difetti, però il sistema finanziario bancario italiano è un po' più solido di altri sistemi. Ma allora, io quanto sia solido o no dipende molto anche qui dalle situazioni. Il sistema finanziario italiano è meno esposto di altri al complesso dei derivati, dalla finanza derivata, che è fonte di rischi sistemici enormi. Basti pensare che in Italia il complesso dei derivati montati dal nostro sistema per clienti italiani e quant'altro è 4-5 volte il prodotto interno lordo, mentre nel mondo è tipo 18 volte. Ecco, quindi diciamo, noi siamo di meno, ma è come uno che viaggia e dice io sono 20 metri sotto il pelo dell'acqua, e l'altro dice io sono 100 metri sotto il pelo dell'acqua. Sì. Quello di 20 metri ci impiegherà di meno a andare a guadagnare la luce, la superficie, ma se non ci arriva affoga uguale come quello che sta sotto 100. Quindi... Grazie a Massimo Bucchetti. Dubbiamente problemi ce ne sono, importante è conoscerli, cercare di affrontare la realtà che è fatta anche del nostro passato, guardando sempre ovviamente a quello che dovremo fare in futuro e fondandoci anche in una certa appunto un giudizio sulla realtà che c'è stata e non tanto sui pregiudizi che sono tanti, forse anche un po' troppo. Grazie a Massimo Mocchetti, vice direttore del Corriere della Sera. Ricordo Confite, Or Potere, Banche e Affari, la storia mai raccontata, intervista con Cesare Geronzi. A tra poco, parliamo di Germania. 24 mattino. Bentornati per quest'ultima parte di 24 mattina, parliamo di Germania, ma le elezioni sono italiane, ha scritto ieri l'editoriale del Corriere della Sera Angelo Panebianco, ricordandoci che la Germania è un po' il convitato che molti evocano in questa campagna elettorale, la propaganda antitedesca e degli sfasciacarrozze, ha scritto Panebianco, non può farci dimenticare che un problema tedesco esiste, si tratta del fiscal compact, l'unione bancaria, ogni decisione che prende l'Europa può essere solo alla tedesca. E allora questa Germania che si avvia anch'essa alle elezioni nel settembre del 2013, con forme e modelli certamente diversi da quelli italiani. Già adesso si sa che si contenderanno Angela Merkel, confermata leader dell'Unione Cristiano Democratica, e Peer Steinbrück, leader socialdemocratico, si confronteranno per appunto conquistare la maggioranza e quindi il controllo del paese. Ma allora questa Germania è veramente un problema? Ne parliamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buongiorno Beda Romano. Con Tommaso Lana, esperto di comunicazione che da 8 anni vive in Germania. Buongiorno Lana. Buongiorno. E con Manfred Kolbe, deputato federale tedesco della CDU. Buongiorno onorevole Kolbe. Buongiorno a Milano. Beda Romano, a Francoforte o a Bruxelles, Beda Romano adesso? A Bruxelles, infatti, però sei stato per lungo tempo in Germania, conosci molto bene la realtà tedesca, che sei obbligato anche a seguire nell'ottica europea. E quindi questa Germania adesso è giusto dire che è la Germania che detta le condizioni all'Europa, Beda Romano? Se dietro al verbo dettare c'è il sinonimo di imporre, direi di no. Se invece dietro al verbo dettare c'è il verbo influenzare, nel senso che la Germania, bene o male, è il paese più grande, più popoloso dell'Europa ed è il paese più ricco e in questo momento più solvibile. E quindi inevitabilmente influenza le scelte europee. Credo che l'aspetto solvibilità sia quello premiante in questa circostanza, nel senso che stiamo attraversando una grave crisi debitoria, ci sono alcuni paesi che sono in gravissima difficoltà finanziaria e ce ne sono altri che invece sono in una posizione molto migliore, in parte per motivi tradizionali e in parte perché sono entrati in questa crisi con dei fondamentali economici molto migliori. E la Germania è tra questi inevitabilmente, quindi direi che i due aspetti, da un lato il peso politico e dall'altro la buona salute economica, fanno sì che inevitabilmente la Germania influenzi le scelte europee. La Germania non è solo il più grande paese europeo, ma appunto anche quella che ha la maggiore disponibilità finanziaria, ci ricorda Beda Romano. Ricordo gli ascoltatori, il numero verde 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Ecco, questa forza della Germania, è una forza dettata indubbiamente dalle condizioni economiche, dalle condizioni finanziarie, ma anche dalle condizioni politiche, cioè c'è un governo forte che sa farsi rispettare. Lo chiedo a Tommaso Lana. Sì, c'è un governo, forse noi possiamo un po' invidiare anche, per quello che si guarda su e si creano anche delle condizioni di a volte paura nei confronti di qualcuno che esprime un'opinione nei nostri confronti, nella situazione politica nostra. Attualmente il governo è forte e se si fa un po' di panorama della situazione politica È curioso in questo momento vedere come l'opposizione si stia organizzando per la prossima campagna elettorale e comunque ci siano dei dubbi sul fatto che i due candidati che correranno per prossimo governo possano fare veramente battaglia. Ecco, il governo Merkel è veramente solido, nonostante abbia avuto in questi ultimi anni alcuni cambiamenti per quanto riguarda alcuni ministri. Ecco, ma peraltro i socialdemocratici, se andassero al governo, cambierebbero la linea politica tedesca? Ma sì, in parte sicuramente sì, visto che Steinbrück, per far capire agli ascoltatori italiani, molto spesso sostiene una linea di Europa alla Bersani, diciamo, quindi sicuramente cambierebbe l'immagine dell'attività politica europea della Germania rispetto a quella che sta facendo attualmente l'Europa. Non so se in bene o in male, comunque al momento, come diceva Beda, la forza del tenere insieme in questo momento viene confermata dalla posizione di Merkel. Ecco. Quindi Merkel è saldamente in testa anche alle prospettive politiche. Ecco, la Germania è passata anche attraverso, lo chiedo a Beda Romano, è passata anche attraverso una forma di grande coalizione. Cioè non c'è molto pragmatismo nella politica tedesca. Se necessario c'è la coalizione, se possibile c'è un'alternanza di governo. E questo pragmatismo forse che è anche una forma di forza della politica tedesca, Beda Romano. Sì, direi di sì, anche se i tedeschi tendenzialmente non amano la grande coalizione. Hanno avuto due esperienze tra il 66 e il 69 e poi successivamente negli anni scorsi. È un'esperienza che loro applicano nel momento in cui i due grandi poli non riescono ad avere la maggioranza. Detto questo, c'è il fattore Merkel che gioca. Il fattore Merkel è importante in questa circostanza perché credo che il cancelliere abbia fatto del pragmatismo e anche dell'opportunismo, aggiungerei, una sua caratteristica politica. Quindi è riuscita in questi anni di cancellierato a governare prima con i socialdemocratici, poi con i liberali. E a questo punto non sappiamo con chi governerà nella prossima legislatura, perché tendenzialmente dovrebbe vincere lei le elezioni. E non sappiamo ancora se sarà costretta a una nuova grande coalizione con i socialdemocratici o se potesse a un certo punto governare con i Verdi. Non è un'opzione del tutto esclusa nella politica tedesca e sarebbe veramente curioso avere alla testa del governo un cancelliere che è riuscito a governare con tre partiti molto diversi l'uno fra l'altro. Ecco, in questa prospettiva, ed è l'ultima domanda che faccio a Beda Romano, ringraziandolo perché poi deve lasciarci perché a Bruxelles si comincia a lavorare presto dei palazzi della politica, magari si finisce anche un po' prima, però appunto lasciamo andare al suo lavoro. Ecco, vorrei chiedere appunto a Beda Romano quanto influisce in questa logica pragmatica tedesca anche il sistema elettorale, appunto che è un sistema elettorale che qualcuno ha detto ma l'Italia dovrebbe copiare, fare un sistema elettorale alla tedesca, ma l'Italia non è riuscita a far nulla se non sempre a peggiorare la situazione sotto il profilo del sistema elettorale. Beda Romano. Ma io ho l'impressione che il sistema elettorale tedesco si applicherebbe fino a un certo punto al sistema italiano, perché il sistema elettorale tedesco funziona in questo modo un po' misto tra maggioritario e proporzionale, perché le famiglie politiche in Germania sono relativamente poche. Dico relativamente perché per tantissimo tempo in realtà i partiti erano tre: il liberale, i democristiani e i socialdemocratici. Poi successivamente sono apparsi sulla scena politica, prima negli anni 80 e poi alla fine degli anni 90, altri due partiti, i Verdi e gli ex comunisti della DDR. Ormai i partiti sono cinque. Il sistema funziona, ma il fatto che si sia avuto una grande coalizione negli anni scorsi e si potrebbe avere una grande coalizione nei prossimi anni è anche indice del fatto che vi è una parcellizzazione della scena politica. Io ho l'impressione che il sistema continui a funzionare oggi, ho l'impressione però che in Italia le famiglie politiche sono molto più numerose e quindi il sistema tedesco non funzionerebbe tanto bene, ho l'impressione che il sistema a due turni francese sarebbe più utile in un sistema italiano dove i partiti sono tanti e vanno quindi eliminati poco alla volta nel corso dei due turni. Ecco, grazie per la domanda, questa osservazione è certamente interessante. Il sistema tedesco, va bene, i tedeschi, forse può essere una tautologia, però è anche indicativo di un sistema, appunto, come dicevamo prima, molto pragmatico, molto concreto nell'affrontare le cose. Forse i latini, gli italiani, i francesi, ma ancora più gli italiani, forse vogliono un po' più complicarsi la vita anche con il sistema elettorale. Grazie a Beda Romano con Tommaso Lana e Manfred Colbert torneremo tra poco. Lasciamo un minuto per le notizie sul traffico. Eccoci ancora a parlare di Germania, l'ultima parte del nostro programma di 24 mattina con il deputato alla CDU, della CDU al Parlamento tedesco, Manfred Kolbe. Ecco, io vorrei chiedere la stessa domanda che ho fatto a Beda Romano: il sistema elettorale, quanto influenza anche le scelte e questa stabilità politica tedesca che in fondo invidiamo? Manfred Kolbe. Beh, non so se dipende solo dal sistema elettorale, perché anche in Germania, per esempio, se lei prende la Repubblica di Weimar, tra le due grandi guerre avevamo un sistema elettorale molto vicino a quello attuale e non funzionava per niente. Cioè, credo che la situazione di un paese non si decide solo sul sistema elettorale, si decide sulla stabilità economica, e questo credo che la differenza fondamentale tra la Repubblica di Weimar e l'attuale Repubblica di Bonn o di Berlino. Cioè, per questo è anche la ragione perché la Germania insiste sulla stabilità economica. Questa è la base della democrazia. È un'Europa super indebitato, non garantisce stabilità economica e non garantisce stabilità politica. Ecco, sì, questa Repubblica di Weimar, appunto, non solo come instabilità politica che ha aperto le porte poi al nazismo, ma anche come instabilità economica, in fondo ha vaccinato i tedeschi contro i rischi dell'inflazione, quindi è ancora presente la grande inflazione degli anni 20 come elemento di grande come il pericolo maggiore per la stabilità economica. Manfred Kolbe. Beh, è ancora presente, ma è anche una lezione che è imparata in ogni famiglia. Nessuno può spendere più di quanto guadagna. Questa è una lezione elementare che è stata sempre valida in tutti i sistemi politici. Anche l'Europa attuale la deve rispettare. E voglio finire due favole che vengono sempre raccontate in Italia. La prima favola è che la Germania vuole colonizzare l'Europa, o sciocchezze simili. Noi non vogliamo colonizzare nessuno. Una maggioranza dei tedeschi 13 anni fa è stata contraria all'introduzione dell'euro e una maggioranza anche oggi sarebbe felice senza i problemi che abbiamo in Europa. Non vogliamo colonizzare nessuno, vogliamo un'Europa stabile con una e non un'Europa che affoga nel debito. E poi un'altra leggenda che viene sempre raccontata è che la Germania sia il paese più ricco d'Europa. Questo in confronto dell'Italia non vale per niente. Il patrimonio privato in Italia è più alto di quello in Germania. L'italiano medio ha 60.000 euro sul conto bancario, il tedesco medio ha 50.000 euro sul conto bancario. E in Italia l'80% della popolazione ha la casa propria, in Germania solo il 50%, cioè l'Italia privatamente è più ricco della Germania. E per questo molti tedeschi, ma l'Italia si permette d'altronde il sistema politico e amministrativo più costoso del mondo e ha una evasione fiscale discreta. E per questa ragione molti tedeschi non hanno la volontà di pagare per questi tedeschi, no? Cioè l'Italia ha aggiunto, lei diceva prima, non si può vivere al di sopra dei propri mezzi, l'Italia ha aggiunto non si può vivere a lungo al di sopra dei propri mezzi, ma non si sa bene quanto duri questo a lungo dal punto del pubblico. Però è anche giusto sottolineare che appunto c'è un alto debito pubblico in Italia, ma c'è anche un alto credito privato, perché gran parte del debito pubblico è posseduto dalle famiglie italiane, che peraltro hanno anche dei patrimoni fortunatamente positivi che aiutano in questa fase di difficoltà. Il welfare familiare è una delle forme più importanti della realtà italiana. Io sentirei Fabio da Verona, buongiorno. Buona giornata a voi. Qualche riflessione. Le aziende italiane però sono fortemente più indebitate e meno liquide delle aziende tedesche, mi aggancio all'intervento del vostro ospite. Per quanto riguarda il cittadino comune italiano, ben venga un commissariamento a 5 o 10 anni da parte, diciamo, della Germania. In democrazia chi ha forza economica ha sempre avuto e avrà sempre forza politica. Dopodiché molti esponenti del PDL, ma insomma la Germania ci vuole commissariare, l'Italia, la nostra indipendenza, Monti ha fatto quello che doveva fare, il medico che ti taglia la mano per non farti andare in cancrena tutto il corpo. È difficile che ti risulti simpatico chi ti dice: caro mio, dobbiamo fare questo tipo di intervento. Tutti vogliono alla fine difendere la propria poltrona e sostanzialmente vivere di una autoreferenzialità precostituita. Grazie di questo intervento. Ecco, quindi non c'è, secondo lei non c'è nessun problema se ovviamente in certe forme la Germania ci detta un po' le regole. Ecco, Tommaso Lana, forse però su certi fronti, visto dalla Germania, anche questa la Germania non ha nessuna intenzione di fare il padrone in casa d'altri, vuole solo che il sistema funzioni. Tommaso Lana. Sì, esattamente, cioè tutto il giro di notizie che si sono create in questi ultimi giorni sull'influenza possibile di una candidatura di Monti alla presidenza del Consiglio per la prossima tornata elettorale sono frutto probabilmente sì di alcuni timori che non esistono. In realtà una cosa molto interessante da osservare qui, insomma, dopo tanti anni che sono qua, è accorgersi di una sorta di responsabilità sociale nei confronti dell'Europa che la Germania sente e che probabilmente in Italia potremmo imparare. Ecco, se la Germania si occupa, nel senso che vuole capire che cosa succede da noi, lo fa per tenere insieme un discorso europeo, anche forse non solo economico. Quando la Germania parla di noi, però noi ci preoccupiamo che ci stia guardando dentro. Magari quando lo fanno l'Economist o il New York Times, no. Però quando c'è questo colosso sopra le Alpi che ci guarda, questa è la percezione a volte, sembra che sia una cosa da non fare. Ecco, io l'ho sempre avvertita così, che l'idea di capire e di imparare per poter fare un'Europa che non sia poi solo economica è un atteggiamento che io riscontro parecchio da queste parti e apprezzo anche. Una domanda al deputato Manfred Kobe, viene dai nostri sms: la Germania è il paese che ha avuto maggiori benefici dalla moneta unica, che ha ora anche i tassi di interesse più bassi anche per le imprese, ecco, non si sente in dovere grazie a questi benefici di aiutare anche i paesi che in questa fase hanno maggiori difficoltà. Manfred Kobe. Beh, non so se siamo stati solo noi ad avere dei benefici. Benefici e vantaggi e svantaggi li abbiamo avuti tutte e due. La Germania, dopo l'introduzione dell'euro, ha sofferto di un forte deflusso di capitali che sono andati al Mediterraneo e nella prima metà degli anni 90 noi avevamo una disoccupazione di più di 5 milioni, abbiamo dovuto fare delle riforme, anche delle riforme pesanti per la popolazione. Cioè adesso ci stiamo riprendendo e la Germania magari è più competitiva di alcuni altri paesi, ma vantaggi li abbiamo avuti entrambi. Anche l'Italia ha avuto dei vantaggi enormi dall'introduzione dell'euro. Il tasso di inflazione è sceso dal 18-20% ad un tasso normale, gli interessi sono scesi, insomma i vantaggi li abbiamo tutti e due. Ecco, indubbiamente anche l'Italia ha avuto i suoi vantaggi, ha avuto per 10 anni dei tassi di interesse particolarmente bassi, ma in questi 10 anni non ha fatto le riforme che sarebbero state necessarie appunto per il mercato del lavoro, per le pensioni, che poi si sono dovute fare in maniera un po' affrettata in quest'ultima fase del governo di Mario Monti. Quindi più che chiedere, indubbiamente bisogna fare i compiti a casa, si dice, per l'Italia in questa fase, ed è forse avere anche una certa pressione vuole da parte esterna, senza appunto cedere una sovranità, ma la sovranità deve essere esercitata anche nell'interesse dei cittadini, non nell'interesse ovviamente di formule astratte, come certe volte si tende a credere che siano le formule economiche. Ma il tempo è scaduto. Io ringrazio Tommaso Lana, esperto di comunicazione che vive in Germania, vive a Berlino. Ringrazio il deputato federale della CDU Manfred Kolbe, ringrazio quanti ci hanno seguito, Peter Bascapè in regia. Lascio la linea tra poco ad Oscar Giannino. Buona giornata e buona settimana a tutti.